Sì, sentiamo se c'è. Dai, siamo tutti a posto, dai che aspettiamo Mike. Ma dov'è Mike? Porca miseria, mi ha suonato la sveglia, devo fare veloce, se no chi lo sente? Poi Mario Bianchi. Sta camminando, eh? Oh. Che è successo? Dice ascoltatori, allegria. Insomma. Vorrei sapere chi dà la cera per terra e non avvisa. Ma mettete un cartello? Ho fatto una sforbiciata in avanti e ho sbattuto il bacino per terra. Dice ascoltatore, alla mia età certe cadute possono essere fatali. Sì. Se qualcuno si azzarda a ridere lo faccio cancellare dall'elenco telefonico. Va bene Mario Bianchi? Ridi a questa cippa, no, forza. No, alzami il volume, tu. No, Mike, non mi sarei mai azzardato a ridere. E fai bene. Va bene, tua e soprattutto di tutta la tua dinastia. Sappi che so dove abiti, Fatti un agguato in garage, ci metto due minuti, certo. Allora, forza, vai con la sigla. Forza e coraggio, amici ascoltatori, benvenuti a Genius, il campionato dei piccoli geni. Allora, dov'è il callo osseo? Sono qua, scusi signor Mike. Forza, dobbiamo cominciare. Posso dirle una cosa prima di cominciare? Forza, coraggio. Sì, forza. Allora, prima di entrare in studio, ho raccolto le lamentele dei figuranti, i quali dicono di essere sottopagati in base all'articolo 321 del codice che regola il lavoro saltuario. Vorrebbero ricevere il doppio di quello che percepiscono. Ha capito? Sì, un bambino che... Qualcuno può darmi un pizzicotto? Ho una smarronata sulle gengive? Sto sognando? Ditemi che è un incubo, ditemi che tutto questo finirà. Non deve nascondersi! I diritti dei lavoratori sono la prima cosa da salvaguardare. Bene, abbiamo il nostro piccolo Cofferati, amici ascoltatori. Vuoi fare una manifestazione per questo? È già tanto che ai figuranti gli diamo da mangiare alla mensa. Forse, quindi muto e pipa. Qui comando io. A Genius non vige la democrazia, va bene? Qui siamo in dittatura piena, va bene? E il caudiglio sono io. Forza e coraggio. Allora dimmi come ti chiami. Ernesto. Ernesto, tuo padre si chiama Fidel. Eccolo qua, il piccolo comunista. Forza, che lavoro fa tuo papà? È disoccupato. Non mi dici niente di nuovo, lo sapevo. Andate in giro a protestare e a manifestare, ma di lavorare non se ne parla mica. Allora, forza, piccola ruffa popoli dei miei ciufoli. Sei preparato? Sei preparato? Sì, e so anche che lei è troppo anziano per lavorare. E in base all'articolo 128 dello Statuto dei Lavoratori, lei dovrebbe essere in pensione e dare spazio ai giovani. Senti allora, vieni qua, avvicinati. Brutto scorfano rosso che non sei altro, hai finito di petare con la bocca, Allora, tafano maleodorante che non sei altro, pidocchio da pube, verruca infiammata, sei più brutto di un'unghia incarnita trascurata. La devi finire di smerigliarmi l'apparato urologico. Sei più fastidioso dell'elicobatto. Al tuo confronto un esame rettale e una passeggiata di salute. Lo vuoi capire o no? Che tanto qui comando io e ho il diritto di vita e di morte su tutti, compreso te. Va bene? Forza, sei più inutile di un pezzo di rucola rimasto incastrato negli incisivi. Se tu fossi stato Abele, Caino non solo ti avrebbe ucciso, ma avrebbe pure infierito e ti avrebbe dato in pasto agli sciacalli. Vuoi ancora parlare di politica? No. Ci credo io. Bene, passiamo alla domanda. Cambiamo totalmente argomento, se no non riusciamo vivi qui. Allora, forza. Forza e coraggio, la sai? La sai? Sì. Come fa a saperlo? Se non mi fa la domanda? Ma non l'ho ancora fatta? No. Ho 80 anni, amico. Certo, 80 succede. Anni succede. Allora, quali di questi terrà? È un successo del cantante Tiziano Ferro? Eh sì. Chi è? No, vabbè, adesso Mike, lei non lo conosce. Non ci do l'opzione. Rosso, relativo, profondo rosso o rosso antico? Mario Bianchi, cos'è il primo maggio? E poi chi è questo Ferro? Avete dimenticato per caso una I? Casomai è Fierro? Sarà il nipote di Aurelio, no? No. Aurelio Fierro. No, mai. Vabbè, forza, la sai? Sì, rosso relativo. Ma va là, risposta sbagliata, ma ti pare? Rosso relativo è un titolo di fantasia sicuramente messo lì dai nostri autori. Ti pare che un cantante intitoli così una canzone? Non è mai possibile, non venderebbe mezza coppia. Ma no, questa qua, quella che fa rosso relativo, senza razza d'amore. Mettila. Ma adesso mettila. Pantera dentro di te, e la posso di tutti. Porca, amati anche e questa sera che... domani torno in te. Ma non ti diverti perché... Ho detto basta! Rosso relativo! Si vede che non è bastata la lezione. Scusa un attimo, conosci la canzone di Pappalardo? Ricominciamo? No! Ecco, è questa qui. Vai! La conosci? No! Aia! Rosso relativo! Grazie, vogliamo. Oh, mamma mia. L'ha massacrato davvero, eh?